Benvenuti a tutti, nuova puntata della serie Ti racconto una storia, il volo dell'Aquila. Abbiamo con noi un personaggio importante per la storia dell'Aquila Montevarchi, per Montevarchi, una persona che ha incarnato la montevarchinità in campo per circa 280 gare ufficiali, circa 20 stagioni di carriera da calciatore, dopodiché pure in panchina ha rappresentato i colori rosso-blu. Io sono Julian Carax, alla regia Simone Uncini, con me Fumino. Buonasera a tutti, e l'ospite di oggi è, per i montevarchini chiaramente, un grande amico e un montevarchino vero, Vinicio Brilli. Buonasera. Buonasera Vinicio, bene, iniziamo la nostra chiacchierata come sempre alla ricerca della montevarchinità. Partiamo dall'inizio, Vinicio. Tu sei un classe 1957, chiaramente mi auguro che non ti offenderai come le signore quando svegliamo l'età. Perfetto, 1957, 27 aprile. E all'età di 16 anni hai fatto l'esordio in prima squadra. Sì, all'età di 16 anni e qualche mese, era il 20 agosto del 1973. Ho esordito in prima squadra contro il Perugia in un amichevole allo stadio Brilliperi d'agosto, una bellissima serata di sport e di calcio. È stata un'emozione grandissima a 16 anni e qualche mese essere in prima squadra. Mi immagino negli anni 70 essere nato a Montevarchi, chiaramente sia di nascita che calcisticamente, e ritrovarsi così giovane a vestire la maglia della prima squadra, che sia stato un onore enorme e un onere anche, però probabilmente, perché già a quei tempi il Montevarchi faceva delle signore categorie, se si poteva permettere di fare amichevoli addirittura con squadre come il Perugia. Quindi mi immagino un grande onore, una grande emozione, e di lì a poco l'esordio in campionato. Sì, quella è stata la mia prima partita in prima squadra. Poi c'era, mi ricordo, Marchesi allenatore, certo Rino Marchesi, grande allenatore, che ha allenato la Juventus, l'Inter, il Napoli, tantissime squadre di Serie A, e mi ha fatto esordire lui. E da lì in poi lui volle che andassi insieme a lui ad allenarmi con la prima squadra, perché insomma vide che qualche cosina potevo fare o potevo valere, e mi portò insieme a lui. Per me fu una grossa gioia, e da lì in poi ho esordito a livello di Serie C, perché allora il Montevarchi, la categoria che faceva il Montevarchi era la Serie C, come è strutturata oggi. Da due anni a questa parte hanno rifatto gli stessi gironi di Serie C come erano allora. Quindi erano campionati importanti, con platee e tanti pubblici importanti. L'esordio in Serie C fu il 12 maggio del 74 contro il Riccione. La tua carriera poi è andata avanti anche fuori da Montevarchi, per poi tornare comunque a casa a un certo punto. Sì, io la mia carriera è iniziata, diciamo, quell'anno con la prima squadra. Ho fatto 4 campionati di prima squadra a Montevarchi, 2 di C e 2 di D, come era una volta la D importante. Poi sono andato via, il Montevarchi, diciamo, mi ha ceduto al Savona, e ho fatto un percorso di 5 anni sempre a livello di Serie C. Sono stato a Savona, poi in Sicilia ad Alcamo, 2 anni ad Avezzano sempre di Serie C, e poi a Città di Castello. Quindi dopo questi anni che ho peregrinato per l'Italia, ho sempre fatto come mia attività, come ho fatto il giocatore, in poche parole, per 14 anni della mia vita sicuramente. Poi dopo questi 5 anni sono ritornato a Montevarchi, anche lì successe che mi chiesero se volevo... sarei ritornato volentieri a Montevarchi. Per me fu una grande gioia. Rinunciai, allora che ero a Avezzano, alla Serie C pur di ritornare a Montevarchi, che era l'anno che Montevarchi era retrocesso dalla Serie C, era tornato in Serie D, e io però fu ben felice di ritornare a Montevarchi, ecco.

gira a Montevarchi ogni qualvolta che si tira fuori il discorso della finale di Chioggia. Ci sono foto in giro per i bar, è un ricordo vivo ancora nelle persone che magari già adulte in quel momento sono venute a vedere la partita, e è un ricordo come se fosse un mito per i giovani che quella volta non c'erano, me compreso. Chiaramente in quegli anni ero talmente piccolo che non potevo essere a Chioggia a seguire la squadra, però mi sento anche io un po' campione insieme a voi, quindi boh, grazie, perché effettivamente avete fatto Montevarchi campione. Ma vorrei ora affrontare un altro piccolo argomento: il calcio a Montevarchi, vissuto da montevarchino. Però tu ci hai raccontato che hai anche girato l'Italia e per 5 anni hai girato dalla Liguria, sei andato in Abruzzo, in Umbria e anche in Sicilia. E io mi chiedo, mi sembra negli anni 70, boh, nel 70, quando era? 78. Nel 78 il tuo trasferimento in Sicilia dal Savona, quindi dalla Liguria alla Sicilia. Dal Savona, sì. A pensarlo oggi, dici, prendo un Ryanair e domani gioco un campionato siciliano, domani l'altro lo gioco valdaustano. Ma negli anni 70, dice, come si faceva a essere intercettati da una squadra siciliana? Che impressione ti ha fatto? Che emozioni hai vissuto? E soprattutto, come era quel mondo lì? Cioè, ti sei veramente ritrovato a vivere un calcio diverso, un calcio differente, sia per come si giocava che per come si seguiva, oppure ci sono delle parti simili anche rispetto a Montevarchi? Il calcio di allora era molto diverso da quello di oggi, parlo anche, come si può dire, federalmente, perché io ero un giocatore a tutti gli effetti della società. Allora non c'erano procuratori, quindi anche quando dovevamo fare i contratti ci dovevamo presentare in prima persona con il presidente e contrattare personalmente. Ora c'è i procuratori, c'è tutte queste cose, è cambiato molto il calcio. Però io dico la verità, giocando a Savona e poi ritrovarmi a 2000 km di differenza, diciamo, da Savona ci sono 2000 km, arrivare a Alcamo, ero molto più vicino all'Africa che all'Italia, diciamo. Però sono state esperienze bellissime, io le ricordo tutte in una maniera molto molto importante. Mi ricordo che il trasferimento da Savona a Alcamo, sono partito in aereo mettendomi d'accordo con il presidente, perché non avevo trovato posto a Palermo in aereo e doveva arrivare a Trapani. Lui mi disse: non ci sono problemi, ti mando una macchina a prendere. Quindi quando sono arrivato a Trapani, appena sono sceso dall'aereo e sono entrato nella sala d'aspetto, e ho visto una persona che era all'ingresso, che sicuramente mi è venuto incontro e mi ha detto: lei, dice, il signor Brilli. E gli dissi: sì, sono io, venga con me. Era l'autista del presidente che era venuto a prendermi con la macchina. Sinceramente sono esperienze belle, perché poi fondamentalmente ero giovane ancora, avevo 21 anni e mezzo, non è che ero, insomma, esperto così, ero molto giovane. E insomma, sono arrivato giù in Sicilia e devo dire la verità, all'inizio ero molto titubante, poi è stata un'esperienza bellissima, avevamo una grande squadra, anche lì mi ricordo che abbiamo perso il campionato l'ultima giornata di Serie C a Crotone. L'ultima giornata noi abbiamo pareggiato a Crotone, il Siracusa ha vinto con la Casertana, me ne ricordo tutte le cose come se fossero successe ora, e ci sono passati avanti di un punto e loro sono andati di sopra e noi non abbiamo vinto il campionato. Però insomma è stata un'annata molto bella. Dopo Alcamo sono andato ad Avezzano, dove anche lì è stata un'esperienza bellissima, anche per le persone che ho trovato tanti amici e tuttora ho, come in Sicilia, ancora ho molti amici che ci sentiamo e per un certo periodo della nostra vita, insomma, ci siamo anche rivisti, io sono stato giù a trovare loro sono venuto a trovare me. E così ad Avezzano ci sono stato 2 anni e ho un grande ricordo anche da Avezzano, di aver giocato con Bonaldi, il centravanti che ha giocato nella San Giovannese, nel Como, quindi con tanti buoni giocatori. Anche ad Avezzano abbiamo fatto due ottimi campionati. Il primo anno siamo arrivati quarti, il secondo anno un po' quinti o sesti, non me lo ricordo. Insomma, ho giocato contro il Montevarchi. Il secondo anno sono venuto a giocare a Montevarchi contro il Montevarchi. Che effetto fa giocare contro la propria squadra? Alla fine contro... Dico la verità, quando sono entrato dal sottopassaggio con una maglia diversa mi sembrava una cosa un po' strana, però lo facevo da professionista, quindi ho giocato ed ho lottato per poter far vincere la mia squadra anche con il Montevarchi, perché era così, la vita è questa, e io lo facevo da professionista, quindi dovevo fare per la maglia che portavo. Però appena sono entrato in campo mi vedevo un pochino strano, cioè non avere addosso quella maglia lì, ecco. Comprendo benissimo. E il risultato finale della partita, volevo? Il risultato finale a Montevarchi perdemmo 2-0. Vinse okay, quindi Montevarchi. Te alla fine magari un... cioè non sì, sei stato troppo triste. Sì, no, però ad Avezzano ci siamo rifatti perché abbiamo vinto noi 1-0 con il Montevarchi. E comunque mi sembra di capire che le squadre che hai girato anche fuori regione, in giro per l'Italia, erano comunque tutte squadre di un certo livello. Quindi effettivamente probabilmente eri anche veramente un grande giocatore per queste categorie, perché in effetti se uno si ritrova a giocare sempre in squadre che lottano per vincere è perché ci sta bene. Sì, io dico la verità, sia negli anni che ho passato a Montevarchi che negli anni che ho fatto fuori, in linea di massima ho sempre giocato, quindi se saltavo qualche partita la saltavo perché magari un piccolo infortunio, ringraziando Dio è stato che io non ho avuto mai infortuni gravi. Giocare a pallone, infortuni capitano, però grossi infortuni diciamo non l'ho mai avuti, per fortuna. Quando saltavo qualche partita, può essere per squalifica, qualche giornata di squalifica, poteva essere normale, oppure qualche magari piccolo infortunio mi teneva fuori, però in linea di massima se in un campionato c'erano 34 partite da fare, magari ne facevo 31, 32. Manca nelle squadre che vi ho detto, manca l'ultima, che sono stato a Città di Castello e anche lì è stata una bella annata. Fu l'Avezzano che mi dette in prestito a Città di Castello, poi l'anno dopo ritornai ad Avezzano. Che poi te finisci come ruolo, eri difensore, giusto? Sì, il mio ruolo era difensore. Forse c'è una canzone che mi può ricordare quello che ero io quando ero in campo, quella di Ligabue, Una vita da Megliano. Ero quello che doveva correre e sempre lottare, sempre dare il massimo, perché bisognava che io facessi in quella maniera. Però io sono stato sempre felice, perché nonostante tutto vedevo che ero utile alla squadra, ero quello che poi magari tutti gli allenatori volevano che ci fosse, perché era uno che in campo fino al 90, no, fino a quando l'arbitro non fischiava la fine, magari poteva capitare anche la giornata storta che magari uno non giocava bene, però a livello di determinazione, a livello di volontà, a livello di carattere, penso di non averne sbagliate una di partite. Poi, come hai detto te prima, ora che ho smesso, ormai è tanto tempo che ho smesso di giocare, dico la verità, forse è vero quello che hai detto te, forse ero abbastanza bravo, perché nell'arco di una carriera, di una vita vissuta nel calcio, e ho cambiato tantissimi allenatori, ne ho avuti tanti, e più o meno tutti mi hanno fatto giocare, forse era perché potevo essere più bravo degli altri. Perché poi comunque, pensando alla canzone che tu hai citato, per quanto io non sia assolutamente un fan di Ligabue, no, però la canzone la conosciamo più, sì, o meno tutti, si esalta il livello, o quantomeno si esalta il lavoro del giocatore umile e della passione. Certo. Te ti sei trovato poi anche dall'altra parte, perché comunque dopo aver fatto il giocatore hai fatto anche l'allenatore. Oltre a essere stato allenatore per le giovanili, sei anche montevarchino. Quindi quello che mi chiedo io è: quanta montevarchinità c'è nell'umiltà della vita da mediano, e quanto te sei riuscito a tramandarla ai giocatori o ai ragazzi che hai allenato? Quando ho smesso di giocare, io sinceramente non ho mai pensato di fare l'allenatore, cioè di intraprendere una carriera da allenatore come magari tanti

E beh, il mondo va avanti, le cose cambiano, la società si evolve e chiaramente noi che viviamo nella società dobbiamo stare al passo con i tempi, è preferibile farlo. Per concludere questa nostra intervista con il grandissimo Vinicio, che non finirò mai di ringraziare per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Vorrei tornare a fare un passo indietro. Parlavamo di piazze, degli anni 70, degli anni 60, quando tu eri un bambino e giocare a pallone in piazza era l'attività più comune che i ragazzi facessero a Montevarchi, come probabilmente un po' in tutta Italia. Pensa te, oggi è vietato giocare a pallone in piazza. Come assurdo, comunque in ogni caso è così. I giubbotti in terra, gli alberi che limitano la porta. Gli alberi facevano da palo. I giubbotti, io non so quante volte mi è toccato ritornare perché avevo lasciato il giubbotto come palo della porta e poi andavo via e poi ritornavo a prenderlo perché me l'ero dimenticato. Oppure le cartelle o le saracinesche dei negozi quando erano chiusi. Mi immagino perché me lo ricordo anche io che sono stato bambino negli anni 80, quante pallonate alle saracinesche le ho perso il conto. Però l'ultima emozione che ti chiedo per i nostri ascoltatori, per noi stessi, per Montevarchi di tirare fuori. Anno 1977, campionato con il Montevarchi. Il tuo primo gol con la maglia del Montevarchi. Ho fatto 3 gol. Nelle 280 presenze con il Montevarchi ho fatto 3 gol. Uno l'ho fatto con la Carrarese, uno l'ho fatto con il Ponzacco e uno lo feci con la Paganese. Però quello più bello è che mi ricordo benissimo, mi ricordo bene, a parte ne ho fatti poi, quindi me ne ricordo bene tutte e tre, quello con la Carrarese. Purtroppo solo con la partita con la Paganese il mio gol è valso l'1-1, in quelle altre due abbiamo perso sempre 2-1, sia con la Carrarese che con il Ponzacco abbiamo perso 2-1, quindi mi dicevano era meglio non lo facessi gol, perché quando facevo gol si perdeva, allora. Però mi ricordo quello con la Carrarese, oggi se ci fosse stata una televisione, la differenza anche fra il calcio di oggi e anche a livello di Serie C e quello che ho vissuto io è che anche oggi la visibilità di una Serie C e di questi campionati qui, ma anche di una Serie D, è molto più ampia, c'è la televisione, ma addirittura la televisione a carattere nazionale. Però ecco, quel gol lì me lo ricordo benissimo perché è stato un grandissimo gol. Ora lo posso dire senza mezzi termini. Ho fatto un gol eccezionale. In quel momento magari non mi sono reso conto neanche io di aver fatto un gol stupendo in quella maniera, perché da un calcio d'angolo all'incrocio dell'area di rigore mi hanno passato una palla, io al volo l'ho messa all'incrocio dall'altra parte della porta. È stato un grandissimo gol. Purtroppo non è servito a niente, però me ne ricordo molto bene. Bene, bene, bellissimo, bellissimi ricordi. Grazie mille Vinicio di essere stato con noi. Grazie mille anche da parte mia, grazie da parte del nostro regista Simone Uncini. Ci sentiamo per la prossima puntata di Ti racconto una storia, il volo dell'Aquila. Se qualche ragazzo giovane ci sta ascoltando, tornate a giocare nelle piazze, tornate a tirare i palloni contro la saracinesca, che se vi fanno una multa la paga Julian Carax. Quindi vi do anche il mio IBAN in privato se volete. Ringraziamo ancora Vinicio Brilli. Grazie a voi, è stata una bellissima esperienza, mi ha fatto molto piacere questa intervista e ricordare tanti bei momenti della mia vita. Il piacere è nostro, soprattutto ricordi splendidi, abbiamo viaggiato con le tue parole in un passato che almeno io non ho visto, quindi speciale, ecco, piacevole. Grazie a tutti, alla prossima puntata. Alla prossima puntata. Buonasera.